tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Bombat, siamo a una nuova edizione del notiziario anticlericale e iniziamo con la Repubblica del 23 novembre che parla della sventurata di San Sepolcro e il convento chiude per amore. La superiora ha una relazione e lascia i voti. Nel monastero restano soltanto 3 sorelle, troppo poche. Firenze. Riaperto 4 anni fa, dopo un periodo di abbandono, chiude di nuovo all'improvviso l'antico convento dei padri cappuccini di San Sepolcro. Qui, dicevamo, dalla Repubblica. Il prete disoccupato per assenza di matrimoni. Siamo al Corriere della Sera del 1 dicembre. E nessuno sposalizio in chiesa in questo paesino del Cremonese che si chiama Sesto ed Uniti. Cambierà l'8 per mille. Chi lo destina allo Stato saprà come verrà speso, ci informa la Repubblica del 23 novembre. Emendamento della grellina Ruocco al decreto fiscale. La scadenza del 7.30 potrebbe slittare, eccetera, eccetera. Sempre sulla suora in fuga, anche il quotidiano nazionale del 22 novembre fa un bel articolo, anche segnala le due religiose incinte in Sicilia. Arezzo, la madre superiora rinuncia al velo per un uomo e lascia senza guida il monastero, anche lei colpita da Cupido. Il Corriere della Sera del 21 novembre ci segnala che in Italia crescono i matrimoni, sorpasso storico dei riti civili. Anche la Repubblica, sempre del 21 novembre, ci informa sul sorpasso storico dei matrimoni civili su quelli religiosi. Molto bene. La Chiesa Cattolica paga gli arretrati dell'ICI dal 2006 al 2011. Emendamento 5 Stelle. Ce lo segnala il manifesto del 19 novembre 2019. Lo chiedono anche alcune sentenze dell'Unione Europea, l'ultima del novembre 2018. No ai privilegi clericali. Veniamo ai radicali italiani, a Marco Cappato, fine vita e aborto, nasce la chat intelligente. Ce lo informa la Repubblica del 20 novembre. Marco Cappato lo definisce l'intelligenza artificiale etica. Sulle disgrazie del clero, sempre in prima fila il povero Formigoni, ormai ridotto sul lastrico, rischia di perdere la casa di famiglia. Ce lo informa il Giorno del 26 novembre. Terribile disgrazia a Pisa, sacerdote investito e ucciso da un'auto pirata, caccia all'automobilista del 21 novembre. Terribile disgrazia clericale anche in Piemonte, in un incidente muore frate Giorgio Bonati, dolore a Bergamo, era nato nel 1964 e rientrava di notte da una serata tra fede e musica, ma disgrazie clericali in una parrocchia di Genova. Muore per meningite una povera ragazza che incautamente aveva frequentato questa festa. Poi sulla acquasantiera, crollata a Udine uccidendo una bimba di 7 anni, ci informa la Repubblica del 22 novembre. E anche cronaca vera ci mette la foto a colori della bambina e di questa scuola sfortunata, piccina, schiacciata dall'acquasantiera nella chiesa del collegio. Sui misfatti della Chiesa torniamo a Firenze. Mozart era un massone, vietato alla cattedrale di Santa Croce. La storica basilica fiorentina nega il concerto dedicato al compositore, il priore Bocci. Non voglio questa musica in chiesa durante l'avvento, il solito reazionario. A finire all'indice anche l'opera di Monsignor Frisina, dedicata alla commedia. Un maglioncino non è bastato, abbandonata, muore neonata a Firenze. Ce lo informa un quotidiano del 20 novembre. Anche qui l'aborto clandestino è dovuto alla propaganda clericale che dissuade le donne dall'andare ad abortire in ospedale in quanto incorrerebbero nella scomunica. Abbiamo avuto un incontro con il responsabile di retelabuso.org, Francesco Zanardi di Savona, e ci documenta, ci informa di nuovo che la dottoressa Bonello che morì per un presunto suicidio nel 2014, in realtà è stata uccisa dai preti. Suora arrestata a Piacenza, ripresa dalle telecamere, maltrattava i bambini all'asilo il giorno del 30 novembre. Mediatori Loschi, un grande articolo a tutta pagina del Corriere della Sera del 22 novembre, ci informa: l'uomo dell'antiriciclaggio Vaticano, vittima dello scontro, Vaticano affarista, comitati d'affari, spie, profittatori, conti cifrati, insomma una merda totale. Una grande inchiesta di Francesco Zanardi sui preti pedofili, pubblicata sul Fatto Quotidiano del 1 dicembre e giorni seguenti. Genova, quel prete deve sparire, scandalo celato. Sul prete pedofilo di Caserta, secondo Cronaca Vera, si era fidanzato con una bambina di 11 anni, arrestato. E anche Giallo, il settimanale Giallo del 27 novembre, il prete Orcole diceva: è solo un ciocco, ma la bimba lo registrava e l'ha fatto arrestare. Ben gli sta. Vaticano, assassino. La rivista Giallo, Emanuela Orlandi, il testo della telefonata dei rapitori va reso noto. E invece il Vaticano nasconde. Il buon ritiro in Vaticano, così il Papa aiutò il vescovo Zanchetta, pedofilo argentino. Molestava i seminaristi. Anche la Repubblica, il vescovo e gli abusi in seminario, ordine di cattura per Zanchetta. Abbiamo poi il Corriere del 22 novembre, sempre sul caso Zanchetta. Abusi sessuali, chiesto l'arresto dell'ex vescovo, insomma, sbatti il mostro in prima pagina. L'arcivescovo di Lione Barbarin, in bilico, nonostante una condanna a 6 mesi per pedofilia, non è stato rimosso dal Papa, dal Fatto Quotidiano del 21 novembre. E poi infine ricordo sempre il buco da 23 milioni dei frati francescani. Il frate ladro Beretta, bustocco ad honorem, ha fatto sparire 23 milioni di euro. Arrivederci alla prossima puntata. Saluti dal Circolo Giordano Bruno. Saluti.